Con Daniele Parisi, bentrovato caro. Eccoci, buongiorno, eccoci trovati di nuovo, ciao. Daniele, però è anche vero che la vita è una beffa. Assolutamente, la vita è una beffa, è una sorta di best of in cui prendo le cose che a me va di fare in questo momento, no, perché uno dice, ah, le cose migliori del mio repertorio, no, no, quello che mi va di fare adesso a me, e le metto insieme e come sempre le getto in pasto al pubblico e insomma mi lancio sul pubblico con grande spregiudicatezza. Ok, i riferimenti web per tutte le informazioni? Benissimo, Il mio sito che è www.danieleparisi.com. allora un abbraccio in bocca al lupo e ci vediamo lì. Ciao.